adesso che farò? Non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Un particolare buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Quantaradio.it dalle sue frequenze virtuali per uno speciale 100,000 Poets for Change, ovvero 100,000 poeti per il cambiamento. Canterò le mie canzoni per la strada. Per questo siamo già collegati con Max Ponte da Torino. Pronto, Max? Ciao, ciao, grazie ancora Antonio. Ciao, per figurati. L'occasione. Stiamo preparando una stele in cartone riciclato. Ecco, volevo appunto dire, è una processione laica che avrà degli stendardi, che avrà dei segni evidenti, come dire, sostituiti a quelli della tradizione. Sì, ci saranno dei segni, li stiamo elaborando tuttora, non ti so dire cosa ve ne verrà fuori, perché non è unica nel suo genere la manifestazione anche qui a Torino, quindi stiamo tentando di proporre sicuramente una manifestazione che non è un corteo, non è una processione, non è niente, ma un po' tutto quanto messo assieme all'insegna della poesia e sicuramente del libro sapere in genere. Noi lo stiamo facendo in modo del tutto spontaneo, senza peraltro nessun particolare legame con strutture di nessun tipo, né partitiche né istituzionale né niente, e quindi è veramente un gesto di democrazia che spero venga apprezzato e sostenuto. Se non verrà apprezzato e sostenuto, peggio per loro. Peggio per loro, certo. Senti, parlando di cambiamento, c'è qualcuno che ha detto che l'utopia è qualcosa che non si è ancora realizzato piuttosto che qualcosa che non si realizzerà mai. Tu sei d'accordo? Dunque, l'utopia, e lo dice la parola, nel senso utopia è quello che non ha un luogo, eccetera. Però all'interno di questo pensiero, secondo me, molte idee invece possono essere realizzate e non devono essere dimenticate. Rispetto agli anni 60 o 70, che tu conosci meglio di me, essendo ovviamente dal punto di vista anagrafico, certo. Noi abbiamo perso tutto e soprattutto direi, per un gioco di parole, la possibilità di immaginare un mondo diverso e di desiderare, ecco, i desideri di cui parlava Deleuze, questo desiderio che c'era nei movimenti del 68 e del 77, noi il ce lo siamo pane, il pane e le rose. Esatto, sì, sì, infatti tutti questi slogan che erano comunque un segno di vitalità, al di là di poi come sia andata a finire la faccenda, perché poi tutti si sono imborghesiti o comunque hanno dato il peggio di sé, però in quel momento era un credo comune. E forse c'è ancora da imparare anche da quei momenti, non sono da dimenticare. Ecco, noi non siamo dei nostalgici nei confronti di nulla, perché ovviamente il 68 non abbiamo manco visto, io sono nato nel 77, però io da quel poco che ho percepito mi pare ci fosse una grande ondata creativa e di desiderante e di libertà che noi non abbiamo più, e quindi sicuramente un po' di, dico invidia, ma di interesse per quell'età ce l'ho, ecco. Per quanto riguarda la questione del 68, Pasolini scrisse una famosa poesia intitolata Il PC ai giovani, nella quale già si intravedeva una forte polemica nei confronti del partito apparato in qualche modo. E perché? Perché non si poteva esprimere completamente una situazione. All'epoca c'erano gli slogan la fantasia e la creatività al potere, che in alcuni casi ha portato migliaia di giovani a, diciamo così, a ritrovarsi nelle piazze e a condividere questi slogan e queste parole d'ordine. Dall'altra però il 68 ha lasciato questo amaro in bocca, perché poi l'imborghesimento di cui tu parlavi come dire, un aver indugiato in salotti, in salotti buoni ovviamente, dove bisognava più che cambiare, bisognava solamente parlarne, al Bal Casablanca, come diceva Giorgio Gaber. Il 77 invece è rimasto, secondo me, non so se tu sei d'accordo, è rimasto monco, è rimasto in qualche modo anche orfano di qualcosa, nel senso che chi veramente scese in piazza nel 77 poi alla fine dovette fare i conti con una repressione anche abbastanza pesante. Sì, quello sicuramente, però al di là di questo ricordo delle esperienze che non erano propriamente legate al partito o alla politica, quella degli indiani metropolitani. Ecco, cioè, io proprio a quello volevo fare riferimento. Questi geni, secondo me, della creatività che facevano le manifestazioni e reinterpretavano anche la loro protesta. Il famoso, vestivano da indiani e facevano sciopero vestiti da indiani. Il famoso potere dromedario. Esatto, potere dromedario, più gelati per tutti l'hanno inventato loro. Esatto, fare, no? Esatto. Più gelati per tutti, o lama non lama, non lama nessuno, sì, che l'ha criticato Giuliano Lama. Esatto, quando... cioè, sono delle espressioni che loro hanno inventato e anche quello è un patrimonio che dovremmo rivedere con grande attenzione. C'erano gli ultimi Moicani, poi nel periodo, diciamo così, del riflusso, vabbè, mutatis mutandis, quando ovviamente vogliamo diventare un po' più acculturati con il latinorum di Don Abbondio. A proposito di Don Abbondio, si è fatta tanta polemica nei confronti dei Promessi Sposi, no? Ti voglio tirare dentro a un ragionamento un po' particolare. Si è fatta tanta polemica su quello che la scuola avrebbe dovuto acquisire e quello che avrebbe dovuto perdere invece per strada. Secondo te i Promessi Sposi sono riusciti a inserire nella mentalità e in una specie di giudizio critico questa antropologia italiana del signorotto, oppure invece era come un acquisire e per poi, come dire, non, cioè evitare di dar fastidio o pestare i piedi a qualcuno? Su questo non ti saprei rispondere bene, facendo un paragone con i giorni nostri, non saprei. Certo è che l'opera di Manzoni la trovo sempre rappresentativa dell'Italia attuale di sempre, e secondo me è un'ottima lettura. Ci sono molti che la odiano, ma io proprio la leggo con piacere, I Promessi Sposi. Allora, ci troviamo d'accordo da questo punto di vista. Lo leggo con piacere, mi sono anche molto appassionato, insomma, nella lettura, insomma, per la prima parte è molto più cinematografica, poi diventa molto più... Molti invece lo vedono come un feuilleton, cioè un romanzo rosa, e non riescono a mandarlo giù. Però no, dico che I Promessi Sposi va bene di lei, insomma, è l'inizio del nostro romanzo. Noi non avremmo romanzi in Italia senza I Promessi Sposi, è inconcepibile che pensare a un romanzo italiano senza quell'opera lì. Come Madame de Staël lo era un po', esatto, per l'Europa centrale, diciamo. Sì, sicuramente, poi trovo che sia... Che il fatto che si scenda in piazza e si faccia poesia in un certo modo non significa dover rinnegare la storia della propria lingua o della propria letteratura, che è ricca e ce la portiamo dietro e dobbiamo esserne fieri. dobbiamo lavorare ancora, insomma, non aver paura del peso del passato, altrimenti non si farebbe più nulla in Europa da tantissimo tempo. Io ti saluto e scappo perché servono preparativi, ringrazio tutti. Vi auguro anche dal punto di vista manuale, come si dice, perché il poeta indubbiamente usa anche le mani. Sì, assolutamente, ma poetare, poesia in greco vuol dire produrre, fare qualcosa, esatto. È legato all'aspetto del poietico, cioè della produzione, quindi nulla che mai, noi stiamo costruendo è una stele di carta di cui ti manderò una foto. Bene, come no, anzi, un abbraccio a tutti, la metterò appena me la mandi sul podcast di questo intervento. Volentieri, volentieri. E mentre, ti saluto, mando la poesia inconsumabile di Pasolini. Molto volentieri, ci è molto caro lui. Naturalmente. Buon proseguimento e buona festa in qualche modo. Sì, sì, grazie, grazie. Ciao. Porterò i saluti a tutti. A ciao, presto. Ciao Antonio. Ciao, ciao. È vero, la società cerca di assimilare, di integrare, certo, è un'operazione che deve fare per difendersi, però non sempre riesce, delle volte ci sono delle operazioni di rigetto, tanto più poi che adesso non possiamo parlare in realtà di poesia come di merce, cioè io produco, tu dici, ed è vero, ma produco una merce che è in realtà inconsumabile, quindi i consumatori... c'è un rapporto strano fra me e i consumatori. Ammetti che a un certo punto in Lombardia viene un certo tipo il quale inventa un paio di scarpe che non si consumeranno mai più. E un'industria milanese costruisca queste scarpe. Pensa alla rivoluzione che succederebbe nella Valle Padana, almeno nel settore del calzaturifici. Cioè io produco una merce, che dovrebbe essere la poesia, che è inconsumabile. Morirò io, morirà il mio editore, moriremo tutti noi, morirà tutta la nostra società, morirà il capitalismo, ma la poesia resterà inconsumata. Insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale, è così stanca e malata, potrebbe far male. Forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero che è sempre più raro, non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete insegnate soltanto la magia della vita. Insegnate ai bambini, non divulgate illusioni sociali, non gli riempite il futuro di vecchi ideali. L'unica cosa sicura è tenerli lontano dalla nostra cultura. Non esaltate il talento che è sempre più spento,

andare tra virgolette in scena. Allora, a questo punto questo collegamento si conclude qui e naturalmente lo utilizzeremo non appena sono disponibili, per cui nelle prossime trasmissioni avremo un nuovo collegamento però con i 100.000 poeti per il cambiamento qui a Roma. Io vi saluto, Antonio Persia vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime trasmissioni dalle frequenze virtuali di quantaradio.it. Ciao!